stavamo per parlare di due figure chiave che hanno dato lustro e importanza a questo settore, creando addirittura la cosiddetta game industry, come diciamo, la vediamo nei giorni moderni. E per potervene parlare meglio nel dettaglio, ho deciso appunto di consultare una guida che comunque ho avuto modo di utilizzare all'epoca dell'università, dove appunto ho studiato comunque anche queste appunto questo il percorso storico del videogioco. Allora, parliamo dunque delle figure chiave che hanno creato la game industry. Queste due figure importantissime sono rispettivamente un ingegnere tedesco, tale Raphael Bayer, no, Ralph Bayer, e un ingegnere invece, nonché un grande imprenditore americano, chiamato Nolan Bushnell. Allora, Bushnell sfrutterà il suo successo grazie appunto a un'ideazione fatta anche da Bayer, ma non solo, anche dai, diciamo, dai precedenti ideatori di giochi, di videogiochi. Come dicevamo nella puntata precedente, parlavamo del fatto che i primi, diciamo, titoli disponibili per l'epoca erano prettamente simulazioni sportive, ad esempio il tennis, con i giochi insomma inerenti al tennis, oppure il gioco del Tris, chiamato in America Tic-Tac-Toe, oppure sempre in ambito fantascientifico, perché comunque per l'epoca i racconti fantascientifici erano, diciamo, molto letti e molto seguiti, specialmente appunto in America. Un titolo basato appunto sulla fantascienza era Space War di Russell. E questo gioco ha dato diciamo un ulteriore spunto creativo a Nolan Bushnell nella creazione poi di un altro videogioco che si chiama Computer Space, ma ci arriveremo a parlarne successivamente. Preferirei appunto introdurvi la figura di Ralph Baer, perché è una figura davvero particolare. Allora, consideriamo questo ingegnere uno tra i precursori, diciamo, della creazione del concetto di console. Potrà sembrare incredibile, ma questo ingegnere è nato nel periodo, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e per sua fortuna è riuscito a sfuggire dal regime nazista poco prima che questo si instaurasse, e scappare appunto in America a farsi una nuova vita. Riesce a studiare appunto in una prestigiosa università americana, laureandosi in ingegneria televisiva. Entra a contatto poi con un'azienda nel 55 che si chiama la Sanders, e per circa 30 anni lavorerà appunto all'interno di questa compagnia. Nel corso della sua carriera dedica circa 15 anni alla realizzazione di progetti inerenti lavori, diciamo, militari, ma utilizzando questo periodo di formazione, affina le proprie conoscenze nel campo dell'elettronica e lavora anche approfittando appunto della sua passione per l'elettronica. Lavora anche sui tubi catodici e i primi, diciamo, microprocessori disponibili per quell'epoca. Diventa manager di un'intera divisione della Sanders e comanda un discreto numero di lavoratori, si parla circa di 200 persone. Lui, Baer, aveva un metodo molto particolare per lavorare, io direi quasi appunto tedesco, viste le sue origini, ovvero si appuntava giustamente tutti i procedimenti creativi per fare e creare effettivamente qualcosa, che sia appunto, come ho detto, progetti inerenti a lavori militari, ad altro inerente appunto al campo della televisione. E sarà proprio dal campo della televisione che all'ingegnere tedesco gli verrà un'idea geniale sul portare all'interno di appunto un televisore un possibile gioco. Quindi a Baer verrà l'idea di realizzare giochi che possano essere fruiti attraverso una televisione. Ovviamente, nata l'idea, non rimane che realizzarlo il progetto, e si affida a un manager che possa, diciamo, cercare di aiutarlo a sistemare questa situazione, un tale Bill Harrison. I due lavorano alla realizzazione di meccanismi in grado di trasferire immagini su uno schermo televisivo e creano il loro primo prototipo di videogioco. La meccanica del gioco stesso, o se vogliamo chiamarlo gameplay, è abbastanza semplice. Si tratta semplicemente di muovere una barra che arriva a colpire un quadrato sullo schermo e fa in modo che questo poi cambi e si sposti. È un esperimento, come dire, abbastanza rudimentale, però che manca, diciamo, di una proprietà importante per un prodotto di consumo, ovvero la caratteristica di poter intrattenere e divertire. Diciamo che Baer da questo lavoro non ne vede inizialmente un gioco in sé per sé, ma un lavoro di ingegneria. E questa intuizione di ingegneria lo porta a capire che forse questo prototipo poteva essere venduto e poteva essere consumato in qualche modo. E ciò paradossalmente porterà, come ho detto all'inizio di trasmissione, alla creazione di quella che sarebbe divenuta storicamente la prima console disponibile nel campo dei videogiochi. Grazie anche all'aiuto di Bill Rush, il progetto riesce a essere realizzato. Purtroppo vengono realizzati anche tutta una serie di altri giochi pensati appositamente per questo dispositivo, ma questa macchina è troppo debole per mantenere, insomma, la potenza grafica di questi giochi pensati, e quindi non esiste anche l'utilizzo di alcuna intelligenza artificiale. Quindi Rush, vedendo che la macchina era così debole, propone proprio di creare un gioco basato sul tennis. Nasce da qui il gioco che rimarrà impresso nella storia, ovvero Tennis for Two, che poi molti confonderanno con Pong, ma Pong è un'altra storia di cui poi diciamo, il creatore o comunque l'ideatore di quel titolo è lo stesso Bushnell, quindi lo studieremo poco più avanti nel corso appunto della stessa trasmissione. E nasce quindi, dicevo, Tennis for Two, che è una simulazione appunto del gioco del tennis, come già vista precedentemente su altri dispositivi. Chi è che si assume la responsabilità di portare un simile lavoro in giro nel mercato e nel renderlo possibile e realizzabile nelle case, insomma, dei videogiocatori? Baer riesce a trovare un accordo, visto che comunque lavorava anche lui con appunto società inerenti a tubi catodici e tutto, con la Magnavox, un'azienda nota principalmente per la produzione di televisori. Firmano un accordo nel 71 e nasce quindi da questo accordo storico la prima appunto console che arriva nel 1972, ovvero il Magnavox Odyssey. La macchina ovviamente doveva avere un design, diciamo, abbastanza futuristico per l'epoca, si ispira esteticamente a, diciamo, alla fantascienza già vista in un classico di Stanley Kubrick come 2001 Odissea nello spazio, ed è concepita esclusivamente per giocare. All'interno del gioco però all'interno della console è presente però solo un gioco, appunto la simulazione del ping pong, e quindi non sarà possibile cambiare gioco all'interno di questa macchina del Magnavox Odyssey. Il Magnavox Odyssey possiede solamente appunto questo Tennis for Two, mentre negli anni successivi impareremo a conoscere delle console che effettivamente avranno la caratteristica di poter avere delle cartucce intercambiabili e quindi dare la possibilità al pubblico e ai giocatori di scegliere altri titoli da provare, da testare e da giocare. Dunque, questa macchina nasce appunto con l'intento di giocare appunto a questa simulazione di tennis. Le aspettative che Bayer aveva su questo prodotto innovativo erano molto alte, decisamente tanto alte, perché comunque era appunto un'innovazione. Lui arriva a vincere addirittura nel 1970 il premio come miglior inventore dell'epoca, quindi insomma, ok, parliamo del 72 ed erano passati quindi ormai 2 anni, però comunque per farvi capire il calibro di questo personaggio che merita di essere citato e di essere appunto menzionato nella storia del videogioco. Dunque, sia Bayer che la stessa Magnavox avevano delle aspettative molto alte sul prodotto lanciato del Magnavox Odyssey, e viene lanciata quindi a partire dal 1972. Magnavox mette in produzione un numero grandissimo di macchine che però purtroppo non trovano uno sbocco nel mercato. Voi vi chiederete: ma perché, se questa è un'innovazione, com'è possibile che non abbia trovato o riscosso comunque successo, o comunque non abbia riscosso così tanto interesse? Allora, parliamo che comunque siamo negli anni 70, quindi bisogna un attimo contestualizzare. Ovviamente i televisori erano quelli che erano e il pubblico non era per forza, diciamo, non aveva per forza i soldi per potersi permettere determinate tipologie di marche di televisori. Magnavox appunto produceva televisori principalmente, quello era il suo mercato, e il nome Magnavox Odyssey sembrava far intuire all'utente o al consumatore che appunto la console, per quanto affascinante, per quanto potesse portare appunto un titolo disponibile casomai nei cabinati o comunque in modo esterno nelle case proprio, si potesse giocare solo se si possedeva un televisore Magnavox. Quindi, quando invece al contrario questa console, il Magnavox Odyssey, era compatibile con ogni genere di modello televisivo dell'epoca. Quindi, nonostante la straordinarietà dell'invenzione, per l'epoca molto avveniristica, Bayer non riuscì a ottenere il successo sperato, probabilmente anche a causa di una gestione inefficace del marketing, che non ha comunque calcolato questa possibilità. Tuttavia, questo lavoro che Bayer compierà aprirà le porte a una rivoluzione, che porta quindi il neonato videogioco fuori dall'ambito universitario e scientifico, perché principalmente, come dicevamo nelle puntate precedenti, il videogioco prima era reperibile solamente in questo genere di ambiti, appunto, scientifici e universitari. Mentre in questo caso il videogioco per la prima volta arriva nelle case, nelle famiglie, e quindi viene introdotto nelle case delle persone e di conseguenza in una sfera economica che non era mai stata toccata. Steve Russell aveva un'idea, diciamo, di videogioco. Steve Russell, il creatore di Space War, aveva un'idea di gioco, diciamo, un po' più, come dire, utopistica e open source, mentre invece Baer aveva avuto un'idea vista, diciamo, opposta, ovvero ha cercato di commercializzare un prodotto proprio, quindi il videogioco per la prima volta diventa anche un prodotto di massa. Purtroppo, appunto, come ho detto, la visione, per quanto interessante, Baer non era appunto un vero e proprio imprenditore, e quindi, a causa, nonostante fosse un innovatore, non riuscì comunque a mantenere le idee che voleva, insomma, portare Magnavox Odyssey ad ottenere il successo. Ma ispirò invece un'altra persona, e questa volta questa persona è una persona chiave, a provare a vedere se effettivamente all'interno di questo campo si poteva sfruttare qualcosa. La persona in questione è Nolan Bushnell. È Nolan Bushnell. Dunque, Nolan Bushnell ha una storia molto lunga e importante ed è una figura chiave di questo settore dei videogiochi. Quindi spero di riuscire in questa puntata a introdurre e a parlare appunto di tutto il suo percorso storico e di quanto ha contribuito almeno a rendere il videogioco un medium credibile, per quanto poi si scaturirà successivamente una crisi del videogioco, forse a causa, diciamo, di una visione un po' estremista dello stesso Bushnell. Comunque, sarà una figura chiave per questo settore. Nasce anche lui come un ingegnere elettronico, inventore, e la sua creazione più rilevante è quella, è proprio l'industria stessa del videogioco. Cioè, lui fa nascere la cosiddetta game industry. Una macchina gigantesca che vale miliardi, se si pensa appunto al mercato odierno. Ovviamente, diciamo, il campo dei videogiochi ha vincitori e vinti, lui risulta come un parzialmente vincitore. Diciamo, è, come ho detto, l'iniziatore spirituale della cosiddetta game industry, ed è stato uno tra gli imprenditori più grandi ad avere la lungimiranza necessaria per trasformare un'idea in un'impresa fiorente e molto molto remunerativa. Lui è il creatore di Atari, quindi, diciamo, i videogiocatori più datati, ma non solo, credo, avranno presente di che cosa sto parlando. Lui nasce a Cleveland, nello Utah, nel 43. Di carattere è una persona molto carismatica, molto astuta, intelligente e piena di risorse. Ha una vita costellata, diciamo, di problematiche. Gli muore il padre in età molto giovane, e quindi poi capisce che sostanzialmente per andare avanti, specialmente nel settore dell'innovazione dei videogiochi, bisogna crearsi delle occasioni particolari che lui riuscirà comunque a sfruttare a dovere. È comunque un inventore a modo suo, è alla ricerca costante di idee di ispirazione, e cerca anche di creare qualcosa che possa comunque divertire, utilizzando anche scelte imprenditoriali un po' appunto particolari. Quindi lui punterà più sul, diciamo, sul successo basato sull'innovazione, e sul divertimento rispetto che a una tecnica, diciamo, di marketing particolare. Ma come ho detto, ci arriveremo con molta calma. Studia anche lui ingegneria elettronica all'Università dello Utah e continua a dedicarsi a diverse anche discipline collegate allo studio appunto dell'informatica elettronica, ma non solo, anche alla programmazione, insomma, non solo alla programmazione, ma anche alla filosofia e tanti altri settori. E rimane un grande appassionato di computer e di appunto di videogiochi. Ed è proprio come dicevo, dagli ambiti universitari che viene a conoscenza di Space War. E da Space War viene ispirato, rimane talmente colpito che inizia ad avere, diciamo, un interesse nella creazione effettiva di realizzare dei propri videogiochi, magari aiutato sia, come ho detto, da un carisma, perché comunque era una persona molto, cioè è una persona molto carismatica. E sia, insomma, dalla sua passione, che ingaggia quindi una serie di studenti di vari istituti per creare poi quelli che saranno, insomma, i suoi primi videogiochi, ovvero, come dicevo, Tic-Tac-Toe, che sarebbe sostanzialmente il gioco del Tris, 3D Tic-Tac-Toe e Fox and Geese. Nel frattempo, visto che Bushnell nutriva anche una grande passione per il mercato dei giochi, dei titoli arcade o dei coin-op, viene assunto sostanzialmente in diversi parchi di divertimenti e cose così, e in questi punti svela di avere, diciamo, delle doti da intrattenitore molto, molto buone. Una sua frase iconica è che la vera sfida consiste nell'attrarre i giocatori a giocare appunto al gioco stesso, o comunque in quel caso magari ai flipper o insomma ai giochi disponibili nelle sale giochi dove effettivamente ha lavorato. Lavorando in queste sale, apprende le meccaniche di funzionamento e manutenzione delle stesse macchine da sala giochi e quindi inizia ad allargare un po' l'orizzonte di conoscenze e a comprendere, diciamo, i meccanismi attraverso i quali il business dei videogiochi opera. Si laurea nel 68 nella prestigiosa università che dicevamo precedentemente. E viene assunto come ingegnere informatico da Ampex Corporation. Lì lavora una serie di progetti, però lui ha un'ambizione talmente grande che non è così soddisfatto e quindi decide poi di uscire da questa società per lavorare sostanzialmente per se stesso, ingaggiando anche altre figure che risulteranno importanti per la sua carriera, appunto, padrino della game industry, proprio prese poi magari, cioè prese proprio dalla stessa Ampex come società. Decide quindi di combinare i talenti che lui aveva da imprenditore con quello appunto da giocatore e ingegnere. E specialmente la sua passione principale, come dicevamo, erano i giochi arcade. E crea quindi una propria versione ispirandosi al capolavoro che l'aveva stregato, ovvero quel famoso Space War di cui vi parlavo, e nasce così Computer Space. Allora, Computer Space avrebbe dovuto riprendere sostanzialmente le caratteristiche di Space War e farne un gioco migliore, diciamo, a livello di meccaniche, a livello di gameplay e così. Specialmente a livello anche di fisica spaziale e gravitazionale. Addirittura Russell pare abbia apprezzato questa rivisitazione della sua opera, ma purtroppo questo gioco aveva un problema abbastanza difficile da risolvere, ovvero le navicelle che giravano in questo spazio erano piuttosto primitive e lente, anche perché comunque per realizzare un gioco del genere si utilizzavano dei computer appunto piuttosto datati e di bassa potenza, e quindi questo gioco comunque non ebbe successo, insomma, sperato, così tanto sperato. Nonostante ciò, Bushnell decide lo stesso di realizzare un device, un proprio device di questo gioco, prendendo in prestito, diciamo, dei componenti dall'Ampex dove lavorava. Costruisce il proprio prototipo di Computer Space e lo fa appunto prendendo queste componenti e lavorando anche come diciamo riparatore di flipper nei bar, insomma nei posti dove nelle sale giochi dove effettivamente c'erano questi tipi di giochi. Decide però insieme al collega conosciuto in Ampex, nonché primo socio in affari, Ted Dabney, di portare appunto questa versione di Computer Space in giro per l'America. Per arrivare appunto a fare ciò, il suo obiettivo è trovare comunque degli investitori e riesce a trovare un contratto dalla Nutting Association, Associates. E per realizzare appunto una prima macchina di questo computer space. Fortunatamente per Bushnell il progetto sembra interessare molto questa Nutting, che diventa addirittura licenziataria appunto del gioco stesso. Bushnell quindi realizza un cabinato molto, molto bello, diciamo, dall'aspetto futuristico anch'esso, in vetro resina, e il cui obiettivo era appunto attrarre il più possibile i giocatori, a questo device molto particolare. Ne vengono prodotti addirittura 1500 macchine. Però purtroppo, come ho detto, questo gioco non otterrà un successo, diciamo, così importante. E quindi, di conseguenza, Bushnell non si abbatterà dell'insuccesso ottenuto da Computer Space, ma anzi, cercherà di essere più agguerrito per portare effettivamente qualcosa di più innovativo secondo lui. Quindi appunto il gioco viene lanciato nel mercato americano nel novembre del 71 e viene visto come uno tra i primi coin-op disponibili nella storia dei videogiochi. Purtroppo appunto non ottiene un successo anche a causa delle difficili regole delle difficili regole diciamo disponibili nel macchinario, e le 1500 unità rimangono quindi invendute. E a causa di questo insuccesso, Bushnell darà la colpa non a se stesso, ma alla Nutting, e quindi rinuncerà sostanzialmente al sostegno della Nutting per lavorare in proprio e creare un'azienda che poi sarà l'artefice del successo barra insuccesso dello stesso Bushnell. Parliamo appunto di Atari. Atari che ottenne successo però attraverso appunto all'inizio attraverso un videogioco che può essere famoso, comunque chiamato così, come diciamo primo storico plagio in un settore del videogioco, nonostante gli stessi videogiochi precedenti fossero copie di copie più o meno, però questo è proprio, si tratta di un vero e proprio plagio perché è messo proprio in commercio con lo scopo di guadagnarci sopra. Parliamo appunto del Pong. Quindi, dopo l'esperienza iniziale ottenuta con il computer space e l'errore di gestione imputato alla Nutting, Bushnell decide quindi di costruire da solo il proprio business. E nel 72, insieme a Ted Dabney e Larry Bryan, un altro collega conosciuto lì in Ampex, fonda la propria compagnia. Dovevano trovare un nome. Il primo nome pensato per la loro compagnia era CZG. CZG, credo, perdonate la pronuncia un po' così, però sostanzialmente è un termine che indica le combinazioni e l'allineamento di tre corpi celesti come il Sole, la Terra e la Luna. Questo marchio, però, era stato già registrato e di conseguenza non si poteva utilizzare per appunto creare una nuova società. E rifiutato appunto questo nome, decisero di chiamare la propria azienda Atari. Purtroppo il primo componente, ovvero uno dei primi componenti, ovvero Brian, decide di uscire dall'azienda. E quindi rimangono solamente Bushnell e Dabney che investono all'inizio una cifra abbastanza irrisoria, cioè $250, per fare appunto per cercare di creare qualcosa. Ovviamente da $250 poi si passeranno addirittura ai miliardi, quindi si parla di una cifra che diciamo Atari ha avuto una crescita incredibile nel corso dei pochi anni di vita in cui è vissuta, ma si parla appunto, come dicevo, di cifre intorno ai miliardi. Quindi, insomma, i due creatori si mettono a pensare a come far nascere e crescere questa famosa società di videogiochi. Situata a Santa Clara, in California, la neonata Atari inizia quindi a lavorare con un fornitore, ovvero Bally, un'azienda che è famosa principalmente per essere produttrice e distributrice di flipper da gioco. Dovendo quindi realizzare per questa società una macchina nuova da flipper e volendo comunque anche trovare in qualche modo una clientela interessata ai lavori di Atari e guadagnare quindi più soldi possibili, Bushnell e lo stesso Dabney iniziano a riparare macchine da flipper nei locali dove effettivamente questi flipper venivano portati. Erano principalmente, come ho detto, bar, caffetterie, ristoranti, insomma, altri locali, anche per dire, vabbè, sale da giochi e cose così. Questo impegno darà ovviamente una discreta cifra, al punto che la stessa Atari assumerà il primo impiegato full time dell'azienda. Parliamo di Cinzia Villanueva, che doveva fare sostanzialmente all'epoca inizialmente la babysitter per la figlia dello stesso Bushnell, ma poi passò a fare sostanzialmente un lavoro di segreteria per la stessa Atari, perché Atari poi, come vedremo, si venderà al mercato dei videogiochi come una grande azienda, quando magari all'inizio non era esattamente così promettente, cioè nel senso non aveva tutti questi soldi, ma Bushnell è una persona molto furba e quindi di conseguenza, tramite, diciamo, mi verrebbe a dire, diciamo, tramite la persuasione, un po' come in D&D, e tramite anche un po' la furbizia, riuscirà comunque a ottenere un ottimo successo. Vabbè, comunque, insomma, questa sarà la prima, sostanzialmente questa signora Cinzia, la prima impiegata di Atari, e avrà come obiettivo, come ho detto, di far credere che Atari sia una società, come dire, molto importante, molto grande. Verrà assunto contemporaneamente a tutto ciò anche un ex collega di Ampex, che era uno sviluppatore, tale Al Alcorn, che sarà appunto il secondo dipendente assunto. È un ingegnere informatico, capace di riparare anche lui televisori, accetta questo impiego in questa neonata società con una promessa falsa di Bushnell di fargli provare una strana macchina innovativa che sarebbe stata capace di creare il gioco della vita. Alcorn accetterà questo impiego, però questo impiego ovviamente in realtà era una bugia fatta da Bushnell per testare le capacità di questo ingegnere informatico. L'incarico che gli diede appunto Bushnell era di realizzare una versione casalinga di un gioco elettronico basato anch'esso sul ping pong e sul tennis. Quindi, per convincerlo ulteriormente, sempre lo stesso Bushnell dirà che Atari aveva stretto un accordo con un contratto, diciamo, con una grande società, tale General Electric, e di aver commissionato e che tale azienda aveva commissionato, diciamo, un progetto proprio per la stessa Atari. E, come ho detto, Bushnell semplicemente dirà ad Alcorn che il gioco deve avere una pallina, due racchette e un punteggio visibile e nient'altro sullo schermo. Da questa bugia nasce, e anche da una grandissima scommessa dello stesso Bushnell, nasce appunto uno tra i capolavori della storia appunto dei videogiochi, ovvero Pong, il primo, diciamo, videogioco di successo della storia proprio dei videogiochi. Viene testato principalmente su un televisore in bianco e nero. È inserito all'interno di un cabinato in legno, diciamo, in legno e poco più largo di circa un metro. Ci vogliono circa 3 mesi di lavoro a questo progetto ed Alcorn riesce a dimostrare a Bushnell e Damney la sua versione di questo titolo richiesto. E il risultato sarà entusiasmante, lasciandoli addirittura, diciamo, senza parole. Diciamo, perché rimangono senza parole? Perché sia Bushnell che Dabney rimangono sconvolti dal fatto che Alcorn non solo mantiene la promessa richiesta, ma si complica la vita aggiungendo, diciamo, dei piccoli dettagli che non erano stati pensati appunto dall'ingegnere informatico Bushnell. Quindi, che dire, Bushnell nella sua strategia di marketing inventa anche una frase che entrerà nella storia dei videogiochi, ovvero avoid missing ball for high score, ovvero evitate di mancare la palla per ottenere il punteggio più alto. Il Pong, per chi non lo sapesse, appunto, è una sorta di ping pong, appunto, con appunto un punteggio e queste racchette che si muovono in uno spazio e vanno dall'alto verso il basso e devono prendere questa pallina e questa pallina pian pianino si sposta, insomma, e se ovviamente la missi, dai il punteggio alla squadra, diciamo, alla squadra rivale, insomma, all'altro giocatore. E una cosa che soprattutto risulterà rivoluzionaria è il fatto che la difficoltà man mano avanza, cioè nel senso che man mano che si danno racchettate alla palla, la palla aumenta la propria velocità. E di conseguenza aumenta la difficoltà del gioco stesso. Tra l'altro, diciamo, se la palla veniva spedita verso un'angolatura in alto dello schermo, c'era un alto rischio di poter perdere appunto la partita, nel senso di poter perdere comunque cioè di poter fare sostanzialmente un punto e quindi ciò rendeva il gioco ancora più competitivo tra chi appunto si voleva sfidare in questo titolo così affascinante. Quindi, insomma, nasce questo Pong e viene pian pianino, insomma, messo sul mercato. Cosa accadrà sostanzialmente dalla messa al mercato di Pong in giro per le sale giochi e non solo? Probabilmente, diciamo, il primo caso, chiamiamolo diplomatico, all'interno della storia dei videogiochi, ovvero che, come avevo citato, l'ingegnere Baer si risentirà molto del fatto che questo Pong ottenga successo e venga venduto e faccia delle più vendite rispetto al suo Magnavox Odyssey. Perché, secondo appunto l'idea di Baer, Pong era sostanzialmente un plagio del titolo da lui creato, ovvero Tennis for Two. Questa intuizione, diciamo che lo porterà effettivamente ad avere ragione, perché effettivamente Bushnell, l'idea del progetto la prende dopo aver assistito a una presentazione di questo titolo, e tra l'altro all'epoca si lamentò anche, stando appunto alle cronache così, si lamentò anche del fatto di quanto fosse rudimentale, fosse insomma molto, diciamo, non curato così bene. E vedendo appunto il lavoro fatto da Baer, Bushnell decide di impossessarsi dell'idea di farne effettivamente un plagio storico. E nel 72 succede tutto ciò, e aveva partecipato appunto a questa dimostrazione del Magnavox Odyssey. E quindi, dopo il successo di Pong, iniziano ad arrivare, diciamo, le prime grane. Addirittura si parla del fatto che Pong, siccome veniva appunto veniva commercializzato nelle sale giochi, una leggenda metropolitana dice che addirittura una di queste macchine aveva attirato talmente tanto pubblico ed era talmente piena di monetine che non riusciva a funzionare la macchina, e molti credevano che non funzionasse la macchina perché c'erano dei problemi tecnici. In realtà i problemi tecnici non erano rilevanti, perché il problema era che appunto la gente pagava letteralmente tanti soldi per poter provare questo titolo. Tutto ciò però non è esattamente una leggenda, perché da questo fatto a Bushnell venne un'idea che fu appunto geniale per lui e non solo, per la stessa game industry, ovvero era alla ricerca sempre di progettisti o comunque investitori che potessero effettivamente pagarlo, ma intuendo quanto questo gioco poteva effettivamente portargli soldi anche producendosi le macchine, diciamo, in privato, dopo aver fatto una consulenza con Bally e Midway, che erano appunto i due produttori interessati alla produzione appunto del gioco del Pong. Bushnell, per tirarsi indietro e autosabotarsi da un certo punto di vista con entrambi, però con l'obiettivo di tenersi i soldi per sé e quindi il successo del gioco, decise di far spacciare Pong come veramente uno scarto di, ad esempio, andando a parlare con la Balli, propose un prezzo basso appunto alla stessa Balli, dicendo sostanzialmente che la Midway aveva rifiutato di produrre questo gioco perché non avrebbe comprato un titolo rifiutato dalla casa produttrice, diciamo, rivale, ovvero appunto sta Midway, vista come appunto ruota di scorta. E per evitare che appunto che entrambe si comprassero il progetto, sostanzialmente ha fatto credere sia una che all'altra che entrambe fossero delle ruote di scorta sostanzialmente di questo Pong. Quindi Midway e Bally si tirano indietro e Bushnell ottiene il Pong tutto per sé e per Atari. Diciamo che, come ho detto, con la creazione di questo gioco, che è il Pong, diciamo, l'idea del l'idea, scusate, l'idea insomma, della creazione di Pong non era stata, appunto, non aveva tenuto conto del dover registrare dei brevetti per avere, appunto, i diritti su questo gioco come esclusiva. Cosa che invece Baer aveva fatto con il suo Magnavox Odyssey. E vedendo che degli oltre 70 brevetti registrati durante il periodo di creazione, il titolo fatto da Atari era molto simile appunto alla sua creazione, Baer decise di portare in tribunale Bushnell con l'accusa appunto di aver plagiato il suo titolo, e non solo insomma, lo portò in tribunale con questa accusa qui, ma per confermare appunto la sua tesi, disse anche che appunto si ricordava che lui aveva partecipato alla presentazione del suo prodotto. Per tirarsi indietro dalle accuse e per evitare di pagare multe estremamente salate, però Bushnell trovò una strategia molto, molto furba e molto, molto cattiva da un certo punto di vista, ovvero patteggiare, dire sì, va bene, effettivamente facciamo così, per tutto il 1976. Tutti i ricavati presi dalle macchine Atari che hanno Pong, insomma, che hanno il gioco del Pong, verranno portate nelle casse della Magnavox Odyssey, della Magnavox e di Magnavox Odyssey, perché devono riparare il danno appunto del plagio ottenuto con Pong. Sostanzialmente Bushnell ottenne una negoziazione appunto con Magnavox, ma come riuscì a raggirare questa negoziazione fatta appunto dallo stesso Bushnell con Magnavox? Semplicemente, visto che appunto i ricavati del 1976 di ogni singolo prodotto fatto da Atari dovevano finire a Magnavox, disse: va bene, allora noi per tutto il 1976, dopo aver firmato l'accordo, logicamente, disse: noi per tutto il 1976 non produciamo nulla, così che i nostri guadagni rimangano tali e possiamo poi dedicarci ad altro e, insomma, e non siamo costretti a pagare appunto la Magnavox. Quindi Atari non avrebbe pubblicato alcun titolo fino all'anno successivo. Quando l'accordo venne firmato, il caso non finì poi alla fine mai in nessun tribunale. E quindi Nolan, utilizzando la propria astuzia, fu veramente capace, insomma, di raggirare una situazione potenzialmente pericolosa e creare poi un modello che poi porterà alla creazione appunto della gaming industry. Ovviamente in tutto in questo periodo storico, oltre ai Pong e Space War, Tic-Tac-Toe, insomma cose simili, nei movimenti studenteschi si creeranno anche nuove tipologie di gioco, perché il videogioco comunque stava iniziando appunto a nascere. Tra queste troviamo ovviamente le avventure testuali, che semplicemente bastava avere appunto una tastiera e uno schermo televisivo, dove dalla tastiera e dallo schermo l'interazione sarebbe stata principalmente basata sul rispondere a una serie di domande e utilizzare soprattutto anche la propria fantasia, perché questi giochi erano per lo più fantasy e portavano appunto magari alla creazione di GDR. Mi viene in mente ad esempio il primissimo gioco di questa tipologia è Dungeon, fatto da Don Daglow, arriveranno poi ovviamente nel corso degli anni anche numerose altre avventure testuali, dove appunto l'interazione era principalmente uno schermo con una scritta, tu dovevi leggere il testo, interpretarlo, capire e dare con la tastiera un input, scrivendo una risposta su cosa volevi fare magari in determinate situazioni. Facciamo un esempio, che ne so, ti trovi in una caverna e davanti a te hai un piccolo goblin che ti minaccia, cosa fai? Che ne so, e scrivi attacca il goblin. Ok, adesso sto facendo un esempio molto semplicistico, però è giusto per darvi, diciamo, un contesto. Ovviamente il tutto all'epoca era, diciamo, abbastanza primitivo, quindi attraverso un sistema particolare che si chiamava parser, il computer, la macchina riusciva a capire degli input che gli si potevano, insomma, che gli si volevano dare, ma non è che si potevano scrivere dei temi su come attaccare in modo, diciamo così, particolare, insomma, il mostro che si trovava magari nell'avventura testuale. Si davano dei piccoli input e il computer leggeva quegli input e li dava. Fatto sta che poi, ecco, tornando alla storia di Nolan Bushnell, si passa dagli anni 70 agli anni 80, ma purtroppo per voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine della trasmissione odierna. Dunque, continueremo la storia di Atari, di Bushnell, della game industry e di tutto ciò che verrà in un prossimo appuntamento. L'idea è di fare magari non ogni settimana appunto un appuntamento sulla storia dei videogiochi, però sicuramente andremo avanti con questa storia. E non mi resta che ringraziarvi, ascoltatori e ascoltatrici. Mi dispiace che questa puntata non abbia avuto musiche, non abbia avuto le news, ma purtroppo siamo partiti in ritardo. E di conseguenza, insomma, ci sono stati un po' di problemi. Tuttavia, vi ringrazio appunto per essere rimasti collegati fino a qui. Vi ringrazio ovviamente Gemini Network per darmi la possibilità di andare avanti con questo programma. Pirate Radio, il Branca Leone che ci ospita e ci consente di fare le nostre trasmissioni. E che dire, l'appuntamento è pensato alla prossima settimana, anche se la settimana prossima dovrebbe esserci la festa della liberazione e quindi probabilmente non è detto che andremo in onda. Comunque maggiori dettagli e maggiori informazioni le potrete trovare nei social appositi, su Instagram, vi ricordo, Pirate Pirate.radio, scusate, Pirate Radio e Alisten.radio su Instagram, e lì dentro potete trovare anche i link inerenti Discord e tanti altri, le puntate dei podcast precedenti. Dunque, grazie dell'ascolto, grazie della puntata odierna e ci vedremo prossimamente.